Aumentare il plusvalore senza prolungare ancora la giornata lavorativa. Aumentare il plusvalore senza prolungare ancora la giornata lavorativa. Come si fa accorciando il tempo di lavoro necessario? Come si fa accorciando il tempo di lavoro necessario? Nuova rivoluzione nella produzione e aumento della forza produttiva. Nuova rivoluzione nella produzione e aumento della forza produttiva. Minore quantità di lavoro e la forza di produrre più oggetti utili. Minore quantità di lavoro e la forza di produrre più oggetti utili. Plus valore assoluto mediante prolungamento della giornata. Plus valore assoluto mediante prolungamento della giornata. Plus valore relativo nasce accorciando il tempo di lavoro necessario. Plus valore relativo nasce accorciando il tempo di lavoro necessario. Il progresso riduce il prezzo delle merci e della forza lavoro e aumenta il plusvalore. Il progresso riduce il prezzo delle merci e della forza lavoro e aumenta il plusvalore.